sei da sola, binario di un treno che vola. Dici che stai allontanandoti e meriti uno che si chiama Resto Verdi. Giungo, andrei lontano, invece forse è presto. Che testa c'ho, basta un po' di onestà. Se passa da qua, respirala, assaggiala. Un sentimento che mi porta via. Siamo anime che vogliono incontrarsi ancora, si cercano. Tu, un sentimento che mi porta via. Colpiscono, yeah. Ricordo ancora il tuo vestito, e il tuo cappello profumato. Solo tu. Che sorvola quando fra noi nasce una noia. Dici che ormai allontanarsi non genera legami ma storie futili. Vedi, lo so, andrei lontano, invece suono e resto. Che testa c'ho, basta un po' di onestà. Se passa d'acqua, respirala, assaggiala. Un sentimento che mi porta via, yeah. Siamo anime che vogliono incontrarsi ancora, si cercano. Tu, quel sentimento che mi porta via. Colpiscono. Ricordo ancora il tuo vestito e il tuo capello profumato. Solo tu. Sentimento che mi porta via. Via, via, via, via, via.